che sono avvicinata alla tua casa. Tutta notte ho visto la finestra della tua casa buia, le ombre vaghe di due persone. Tutta notte ho visto. Sarà felice lui che non so chi, sarà molto felice lui, lui che è con te. Oh, una finestra buia, così era lì solo perché per stare la terra, e sono tornato senza parole perché era triste mio stare lì. Finestra buia, così.